Fibra, sei troppo commerciale, non mi piace più, ti vedo ovunque, sei commerciale. Ah, beati coloro che bevono solo teati, teatri e lavori li vedono a mondi creati. Quando mi dici sei commerciale, io mi chiedo cosa hai fatto in questi ultimi 10 anni, gelati. In questo paese è hip hop, chi non ce l'ha fatta, come Arafat senza voce. Ho la vita che mi scorre veloce, ho la tipa che mi scopa veloce. Questa base non è hip hop, tu dici, e questo rap non è rap, tu dici. Sono il numero uno anche se non lo dici, quant'è vero che da ricco hai più amici. Questa ragazza a 15 anni mi dice che ero figo su Turbe Giovanili, ma quando Turbe Giovanili è uscito lei stava all'asilo nido. E il mondo gira sui soldi, soldi, soldi, soldi, e ancora più soldi. Il mondo gira solo sui soldi, soldi. Tu quando parli io sento solo bla bla bla bla bla bla bla bla. Il tuo momento non c'è mai stato. Sono così famoso al punto da non piacerti più. Allora ti consiglio di ascoltare gente sconosciuta tipo lui. Chi cos'è, come si chiama, chi è, appunto. Sono così famoso al punto da non piacerti più. Allora ti consiglio di ascoltare gente sconosciuta tipo lui. Chi cos'è, come si chiama, chi è, appunto. Cane mangia cane, fumo camel, non faccio cameo, creo trame, catrame. Mille domande le fanno a me, e se il disco non vende, amen. È un dramma, quando arrivano al microfono alle gemme a dire viva la mamma. Rimango a casa in questo giorno grigio, la vicina che guarda. Non conta l'età, hai la metà, lamenta, fresh. Chi si lamenta, rap 30, arte marziale come la legge. Scrivo una rima, lei subito la legge. E vai così finché la faccenda regge. Salta tutto, rimangono le schegge. Anche l'uomo che vestiva posato si sente meno figo dopo che si è sposato. Punto in alto, se voi siete altro, io sono più che altro. Mi chiedi in realtà come sono, con lo stesso modo di fare di quando chiedi che ore sono. Sono così famoso al punto da non piacerti più. Allora ti consiglio di ascoltare gente sconosciuta tipo lui. Chi cos'è, come si chiama, chi è, appunto. Sono così famoso al punto da non piacerti più. Allora ti consiglio di ascoltare gente sconosciuta tipo lui. Chi cos'è, come si chiama, chi è, appunto.